Termani, che fino a venerdì scorso era ancora al numero uno nella penultima classifica del 1994. Venerdì c'è l'ultima classifica e ci sarà anche la classifica delle più ballate di tutto l'anno venerdì. Questo è Big Dick, Robert Armani, e tra l'altro vi do un annuncio: a metà gennaio Robert Armani sarà a Roma o nei pressi, capito? Sarà con noi. La traccia che dà proprio l'inizio all'intero LP, e sapete come si chiama? Sapete come si chiama? Roma. Roma. State attenti. Anteprima qui nel virus. Roma. Roma. Roma. Roma. Roma. Mondo Radio. Roma. Roma. Roma. Roma. Mondo Radio. Mondo Anteprima nel Virus Eyes, una delle tracce, la traccia che dà l'apertura all'intero LP, Rage of Age, Rabbia dell'età, si chiama Erro Ma. Trasbatrisba. We'll be right back. Play a little game. We'll play the hand slap game. One man leaves the circle. I miss, you get a shot. You miss, I get a shot. Here we go. Miss the big balls. You Your Chart. Questo disco ormai significa tante tante cose, eh? Dreams, da Valerio a tutti i ravers del muretto, al gruppo FUB di Ossia, a Valerietta, e poi gli dice a Valerietta da Valerio: belle storie. E lo Svatraiz, eh? Dreams, dreams, dreams, dreams per la Your Chart alle 23.30. Questo è il suono di Roma. Questo è il disco del Virus AIDS. Ma che disco del Virus AIDS? Di E2027, questo è il Virus AIDS. Pump the bass.

no, no. James Bond. La maestra ci faceva cantare, ma io non riuscivo perché non capivo le parole. Gam Gam. Questa è la numero uno. Oggi vi proporremo la numero uno in versione remix by Giorgetto Prezioso. Il numero uno, infatti, si chiama Secret Zone. Disco Maui Corporation e DBM Communication in collaborazione con Pride of Rome e ancora Tuono e LTDR Urbana presentano Secret Zone domani sera, sabato 2 luglio 1994, dentro Roma, dalle 22.30 fino alle 5 del mattino. In console troverete il virus in persona e lo Sides. Freddy Keyes, dal vivo il concerto dei Trio Tree Project, dalla Vibraphone Records Mr. Mauro Tannino, dalla DBM Ivano P, dall'ACV Record Sandro Galli. La struttura è dentro Roma, è il Gasoline, Gasoline che conosciamo molto bene, c'è un impianto bello e lo Sides. Via di Portonaccio 212, dentro Roma accanto a Largo Prenestre, uscita tangenziale S e Casal Bertone, è dentro Roma, vicino a Largo Prenestre, vuol dire che ci sono anche i notturni che arrivano a Largo Prenestre, quindi potete venire anche con i mezzi e poi con il motorino, come vi pare. Va bene, quindi domani sera non c'è nessuna scusa, Secret Zone, al Gasoline, Disco Mavi Corporation, Freddy K e lo Zizides, Trio Team Project, Mauro Tannino, Sandro Galli, Ivano P, domani sera al Gasoline. Se volete informazioni, 21 58 870 21 58 869, vi rispondiamo noi. E arriva Mimas, disco su Music Man. Mimas su Music Man, etichetta belga. Va. Se avete la maglietta del virus, ce l'avete sì, eh? Va boys. Sapete dove trovarle, se non sapete chiamate qui. Ma se volete qualsiasi informazione su, diciamo così, la musica techno, chiamate qui, 2158-870-2158-869. Il virus, è il momento della Your Chart. Your Chart, il primo appuntamento a 9:30. Sentiamo tra un po' chi c'è. 2158-870-2158-869. Your Chart. Your Chart. Your Chart. Sentiamo un po' chi abbiamo in diretta, sentiamo un attimino. Pronto? Ciao Freddy, sono il bicchierino di Ostia. Come sei? Salutoni. Tutto allora, bene? Tutto bene? Sì, tutto bene Freddy. Volevo fare un po' di saluti a un par d'amici che stanno a fare i botti. Vai. Stanno a lavorare. Un saluto a Massimiliano, al Peppe 71. Poi al Coco de Piazza, a Daniele, a Arcipelli, a Sgamma, Carozzo, a tutti quanti, a mio fratello, a Cirillo e a tutti gli amici di Fiumicino e quelli conoscono. Vabbè, ciao Freddy, metto Liquid 59, salutone, ciao Freddy. Ok, Freddy. Ciao, grazie. Your Chart. Be the beginning of the end. What is house? What is house? What you're observing may well be the beginning of the end. What is house? What is house? What you're observing may well be the beginning of the end. What is house? What is house? What you're observing may well be the beginning of the end. What is house? What is house? What you're observing may well be the beginning of the end. What is house? What is house? Oh, Biru Zazazai, era il disco di Marco Passarani, 2099, la traccia Xinuxoid. Aria Christian Vogel, tra pochissimo parliamo di dove si va a ballare domani sera, ormai lo sapete, Secret Zone, domani sera, ne parliamo tra un attimo. Questo è Christian Vogel su Magnetic North. Why?